Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nell'inverno del 1942, l'investigatore privato Bruno Astolfi si trova ad indagare su una serie di delitti che avvengono durante le riprese del film Harlem di Carmine Gallone. In un romanzo giallo che mescola realtà e fantasia, il noto regista Umberto Lenzi racconta una storia che rievoca luci e ombre dei primi anni di Cinecittà. Non potevo esimermi quella mattina dal mio compito di responsabile della sicurezza alla Cines, anche se avevo dormito malissimo e mi ero svegliato di cattivo umore, con un feroce mal di testa. Alle 9 ero già sulla scena di Harlem, a conferire con i galoppini della produzione e i capigruppo ai quali era affidato il compito di radunare, selezionare e avviare al trucco le circa 800 comparse appartenenti al sindacato fascista dello spettacolo. Mi assicurai che non ci fossero intrusioni di estranei. Parlai personalmente con Pappalardo, il grosso portiere di Cinecittà, raccomandandogli di verificare i passi di ogni eventuale visitatore e di respingere chi non fosse in grado di esibirlo. «Stia tranquillo, dottore, sono come il Piave, non passa lo straniero», mi rassicurò scherzoso. Al teatro numero 5, nella sgargiante scenografia del mitico Madison Square Garden di New York, ricostruito in scala e illuminato da una serie di enormi proiettori da 10.000 ampere, stavano per avere inizio le riprese della spettacolare sequenza in cui Massimo Girotti si batte per il titolo mondiale dei pesi massimi con l'atleta americano di colore Charlie Lamb. Le prime inquadrature con il campione nero che fa il suo ingresso nell'arena tra due ali di folla strabocchevole richiesero una lunga ed estenuante serie di prove. I prigionieri negri, vestiti e truccati da sostenitori del pugile di Harlem, al segnale dell'aiuto regista si agitavano scomposti sulle gradinate a destra del ring, incitando isterici il campione della loro razza. Stavano tutti più o meno volentieri al gioco, per compenso avrebbero avuto due pacchetti di sigarette e una razione di cibo migliore, uguale a quella delle numerose comparse italiane. E inoltre si sarebbero sottratti per un'intera giornata al loro stato di soldati vinti, lontani dal paese di origine e privi dei diritti spettanti ai combattenti in arme, secondo le norme del diritto internazionale. Il sergente americano Oliver Lawson, che aveva spiegato ai suoi compagni di reclusione con pazienza, ma in modo militaresco e impersonale, come dovevano assecondare le raccomandazioni del regista, quel giorno non faceva parte del gruppo. Assisteva alle prove fuori del campo di ripresa, vicino all'aiuto regista, impegnato a strillare del megafono ordini e controordini, fino al fatidico momento del primo ciak. Nella tarda mattinata, Carmine Gallone, seduto accanto all'operatore della macchina da presa numero 1 piazzata su un'enorme gru, alzò un braccio e ordinò con voce ferma «Motore!», a cui fece subito eco la conferma del fonico «Partito!». Dopodiché un giovane macchinista batté il ciak davanti all'obiettivo, scandendo «Harlem 497 prima!». «Azione!», la voce del regista echeggiò autoritaria nell'assoluto silenzio. Immediatamente iniziò a scatenarsi il tifo del migliaio di figuranti, bianchi e negri. Mentre faceva il suo ingresso e si dirigeva verso il ring, l'attore che impersonava il pugile Charlie Lamb, seguito dall'obiettivo con un ampio movimento della gru verso l'alto, a inquadrare il totale dell'ambiente. Tutto si svolse come previsto. Dopo aver ripetuto la ripresa dell'inquadratura per altre due volte, Gallone dette lo stop e si dichiarò soddisfatto. «Buona la seconda e la terza, si stampi!» gridò alla segretaria di edizione Annalena. Dopo essersi tolto la visiera e aver scambiato qualche parola con Jacopo Comin, si avviò spedito in direzione dei camerini, seguito dai più stretti collaboratori. «Pausa pranzo, si riprende tra un'ora!» urlò l'aiuto regista nel megafono e la fatidica frase fu accolta da una selva di applausi. Mancava esattamente un minuto all'una. Le comparse iniziarono a sfollare, mentre le porte del teatro venivano aperte completamente per accelerarne il deflusso e assicurare il necessario ricambio dell'aria all'ambiente saturo di calore. A mia volta uscii fuori e finalmente mi accesi una sigaretta. Un paio di guardiani rimasero a presidiare il Madison Square Garden vuoto per evitare eventuali intrusioni di estranei. Tutto sembrava filare liscio intanto che le figurazioni d'ambo i sessi si accalcavano ai distributori mobili della produzione per ricevere il cestino del pranzo. I prigionieri vennero avviati dai militi della scorta in una delle attrezzerie, dove era stato allestito per loro un posto di ristoro con cibo e grandi recipienti di acqua e limone. Il capo Manicolo, Cardia, fece rapidamente la conta e fu allora che ebbe inizio il dramma. Uno dei prigionieri, il più importante, non rispose all'appello. Il sergente americano Oliver Lawson era scomparso. In preda al panico, l'ufficiale urlò l'allarme. Gli uomini della scorta armarono immediatamente i moschetti e diedero inizio a un'affannosa ricerca per i viali e gli edifici dell'intero stabilimento cinematografico. Non appena mi resi conto di quanto stava avvenendo e delle conseguenze perniciose che sarebbero derivate dalla probabile evasione del prigioniero americano, mi catapultai nell'ufficio della Cines, ordinando di bloccare tutte le uscite secondarie di Cinecittà. «Non ha senso, non credo che si tratti di una fuga», commentò scettico Gallone, che era stato subito avvertito. «E dove va uno che parla sì e no tre parole di italiano? E oltretutto è negro», osservò Comin, ostentando sicurezza. «Quello tra mezz'ora si imbatte in due carabinieri e quando lo riportano qua ci racconta che era andato a prendere una boccata d'aria». Non rise nessuno alla battuta e io persi le staffe. «Non sarei così ottimista. Se Lawson raggiunge Piazza San Pietro, escludo che qualcuno possa riprenderlo. Il Papa non è in guerra con l'America e lo Stato Vaticano gode del privilegio di extraterritorialità». Tacquero preoccupati, prendendo atto che la situazione poteva degenerare e risolversi nel modo peggiore. Infatti in quel momento risuonarono secchi alcuni spari. Io non persi altro tempo, piantai tutti in asso e corsi fuori. Mi imbattei nei militi che avevano sparato, uno di loro mi indicò concitato il muro di cinta posteriore. Ha scalato il muro da quella parte, per una frazione di secondo l'ho intravisto. Mi fondai verso la mia lancia posteggiata sul piazzale e con un colpo di acceleratore la diressi verso l'uscita, facendo segno a Papalardo di sollevare la sbarra. Imboccai la Tuscolana, quindi girai a sinistra, detti gas, e filai lungo il tratto di strada che lambiva il muro di cinta dello stabilimento. Arrivato al punto segnalato dal milite, arrestai l'Ardea con una frenata e scesi. Non c'era anima viva attorno. Mi avvidi subito che il prigioniero aveva effettivamente saltato il muro. Il suo berretto verde oliva con il logo PG spiccava a terra. Doveva averlo perso mentre si lasciava cadere al di qua della parete. Mi buttai in direzione del declivio che immetteva, tra cespugli di rovi e intrighi di canne, fino a una carreggiata di campagna che confluiva con la provinciale, in località Osteria del Curaro. Correvo con il fiato mozzo. Mi rendevo conto benissimo che le possibilità di bloccare il foggiasco erano minime. Aveva acquisito troppo vantaggio. D'un tratto mi parve di udire un grido acuto e straziante. Mi fermai e cercai di individuarne la direzione. Alla mia destra, giù in fondo al canneto, qualcosa si muoveva. Poi il grido si ripeté, più fioco. Corsi a perdifiato tra la sterpaglia e in una dozzina di secondi sbucai in uno slargo sterrato. Restai impietrito, con il cuore che martellava il petto come un'incudine. Il corpo insanguinato del sergente Oliver Lawson era rattrappito al suolo, davanti all'ingresso di un grosso collettore di acqua piovana in disuso. Mi chinai su di lui nel disperato tentativo di soccorrerlo, ma mi resi subito conto dell'estrema gravità delle sue condizioni. Era stato accoltellato più volte. Da un profondo squarcio nel torace, il sangue sgorgava copioso. Un pensiero sciocco mi attraversò la mente in un lampo. Anche i negri avevano il sangue vermiglio come noi. Stava agonizzando, il sergente Lawson. Mi fissava supplice con gli occhi sbarrati, già offuscati dal velo della morte. Nella mano destra stringeva un pacchetto semivuoto di Macedonia Extra. Tentò con fatica di protenderlo verso di me. Mormorò qualche parola incomprensibile, quindi ricadde all'indietro e rimase immobile. Era morto. Un rumore sordo, come di pietre smosse, ruppe d'improvviso il mio stato d'angoscia. Mi voltai di scatto verso l'imboccatura del collettore di cemento e mi sembrò di intravedere la sagoma di un uomo che scompariva con un balzo nel cunicolo oscuro. L'assassino. Mi catapultai a inseguirlo all'interno della galleria di scolo, maledicendo per non avere con me la Browning 7,65 semiautomatica, risalente ai tempi del mio servizio in pubblica sicurezza. Arrancavo nell'oscurità quasi a tentoni, tra fanghiglia, pietre e rottami d'ogni genere che ostruivano il percorso, ostacolando la mia corsa. Sul fondo del cunicolo distinsi per qualche attimo la silhouette dell'assassino stagliarsi nel riquadro luminoso dell'uscita. Stavo guadagnando rapidamente terreno, ma inciampai in un ammasso di detriti e persi l'equilibrio. Imprecando, mi rimisi in piedi dolorante e ripresi la corsa. Quando finalmente sbucai all'aperto, sul greto di uno stagno putrido, intersecato da una fitta selva di canne, non c'era più traccia dell'uomo che aveva accoltellato a morte il prigioniero americano. Sostai un attimo a riprendere fiato e aguzzai lo sguardo. Una cinquantina di metri più avanti, oltre una lunga linea di pini, si snodava la via Tuscolana. La raggiunsi con il cuore in gola, scrutai a destra e a sinistra. Niente. Il maledetto assassino, chiunque fosse, mi era definitivamente sfuggito. Mi sentivo un verme. Se fosse arrivato solo un minuto prima al collettore, forse avrei salvato la vita a Oliver Lawson e posto fine a questa sagra di morte. Raggiunsi il collettore un paio di minuti prima che arrivassero i soldati della scorta e feci la scoperta che mi lasciò di sasso. A meno di un metro dal cadavere di Oliver Lawson, dal terriccio imbrattato di sangue, sporgeva un oggetto strano che prima non avevo notato. Mi chinai a raccoglierlo. Era una carta dei tarocchi identica a quella trovata vicino al corpo di Tony Moriello. Raffigurava la morte. Avete ascoltato la lettura di alcuni brani dal romanzo di Umberto Lenzi, Terrore ad Harlem, Coniglio Editore, 208 pagine, 12 euro. È facile sentirsi vittima delle circostanze, perché in questo modo si può attribuire la responsabilità della propria spiacevole situazione agli altri. Ma dare la colpa agli altri non è di nessun aiuto. Soltanto quando smetterete di farlo, prenderete in mano la vostra vita. Questa decisione è già l'inizio di uno sviluppo migliore. Avete ascoltato la lettura di un breve passaggio dal libro di Moritz Huber, La strategia dell'orso bianco, riuscire nella vita nonostante le difficoltà, vivere ogni crisi come una sfida. TEA Editore, 112 pagine, 9 euro. Letture di Radio 24. Nel marzo 1940, oltre 15.000 soldati e civili polacchi vennero massacrati nella foresta di Katyn in Russia. Per molti anni l'Unione Sovietica cercò di attribuire ai tedeschi la paternità dell'eccidio e solo nel 1990 ammise che la responsabilità era della NKVD, il Commissariato del Popolo per gli Affari Interni. È noto come durante l'era staliniana l'apparato amministrativo sovietico attribuisse grande importanza alle dichiarazioni fatte da Lenin e alla sua interpretazione della dottrina comunista. È proprio alla luce di tale dottrina che si può forse spiegare perché i polacchi uccisi a Katyn siano in maggioranza ufficiali. Secondo Lenin, la guerra non è un conflitto fra individui o stati, ma fra classi, gli oppressori e gli oppressi, fra la borghesia e il proletariato. Quando la guerra promuove gli interessi del proletariato, è progresso, indipendentemente dal numero delle vittime e dalle sofferenze che comporta. Il concetto sovietico di lotta di classe spinse le autorità della NKVD a classificare con meticolosità tutti i cittadini polacchi. L'istruzione segreta numero 0054 del commissario della NKVD per il territorio polacco occupato dalla Russia, datato 1940, catalogava le persone che a causa dei loro trascorsi politici o sociali, del loro sciovinismo o convinzioni religiose, sono i nemici della Repubblica Sovietica. Il documento prevedeva 12 categorie di nemici della Russia. La quarta categoria, in ordine di importanza, comprendeva tutti gli ufficiali di qualsiasi esercito, esclusa l'Armata Rossa. Il solo fatto di essere un ufficiale delle forze polacche significava quindi, in quel periodo, 1940, essere automaticamente non solo un nemico di classe, ma anche un nemico dell'Unione Sovietica. Dal punto di vista legale, i sovietici potevano fare degli ufficiali polacchi quello che volevano, perché la Russia non aveva aderito alla Convenzione di Ginevra concernente il trattamento dei prigionieri di guerra del 27 luglio 1929. Ne consegue che i russi trattavano gli ufficiali solo in base alle leggi, alle tendenze politiche e ai vantaggi dell'Unione Sovietica. Gli ufficiali venivano arrestati immediatamente, sia che avessero o non avessero combattuto prima di arrendersi. Agli occhi della NKVD erano colpevoli non solo gli ufficiali, ma anche i professionisti. Quando Po Oreki, presidente della Corte Suprema polacca, fece rilevare a un generale della NKVD che lo interrogava che egli non aveva mai avuto niente a che fare con le organizzazioni militari, si sentì rispondere che bastava il fatto di essere il presidente di una corte suprema di uno stato borghese per essere imprigionato. Evidentemente è in base alla professione che si trattarono alla stessa stregua ufficiali, preti, ministri e rabbini, alcuni dei quali non erano neppure cappellani. A Kozelsk c'erano circa 100 religiosi di diverse confessioni, di cui uno fu identificato nella foresta di Katyn. A Starobelsk ce n'erano 25. Non si può sapere con sicurezza quanti fossero a Ostaskov. Di tutti questi preti, solo uno arrivò a Grazovec. Non è certo una coincidenza che tutti i membri dell'Istituto Polacco per le ricerche sui gas asfissianti siano stati uccisi. Fu eliminato anche l'80% degli studenti di Dipartimento degli Armamenti del Politecnico di Varsavia, insieme a più dell'80% del personale dell'Istituto Tecnico per gli Armamenti. La schedatura e l'annientamento di professionisti di valore che almeno in potenza avrebbero potuto levarsi contro l'Unione Sovietica potrebbero spiegare perché parecchie centinaia di civili siano stati internati con gli ufficiali. Arrestati nella Polonia orientale, erano stati imprigionati con i militari, di cui avrebbero condiviso la sorte. È probabilmente per questa stessa ragione che insieme agli ufficiali c'erano anche parecchie migliaia di soldati semplici e di sottufficiali che erano stati imprigionati non in base al loro grado, ma per le loro funzioni militari o civili. La posizione politica dei prigionieri nei confronti dell'Unione Sovietica venne valutata in base a 4 categorie, ognuna delle quali, secondo la classificazione della NKVD, poteva nascondere dei potenziali nemici dell'Unione Sovietica. Tali categorie erano grado, professione o affiliazione, posizione sociale, atteggiamenti verso la Russia e il comunismo in genere. Molti rientravano in tutte e 4 le categorie. Ciò non deve meravigliare se si pensa che fra i prigionieri, soprattutto fra gli ufficiali di riserva imprigionati nei 3 campi, c'erano più di 50 professori universitari, più di 1000 avvocati, molti scrittori, uomini politici, giornalisti e circa 800 medici. Anche i medici scomparvero. 146 del campo di Kozelsk furono identificati a Katyn. Fino a quando non saranno disponibili gli schedari della NKVD, non si potrà sapere in quali categorie rientrassero, ma è certo che l'uccisione in massa di 800 medici in base a un'unica operazione decisa dall'alto è un avvenimento senza precedenti. Comunque siano andate le cose, rimane il fatto che il governo sovietico eliminò, con una sola azione evidentemente premeditata, una considerevole percentuale dell'elite intellettuale e professionale della Polonia. La NKVD aveva il compito di sorvegliare questi prigionieri e di trovare una soluzione che conciliasse la loro posizione sociale con la legge sovietica. La NKVD non solo sorvegliava i prigionieri, ma li giudicava. La sua normale procedura con i prigionieri di ogni tipo era di sottoporli a interrogatori diretti e personali. Interrogare, cercare informazioni e classificare i prigionieri era normale routine per la NKVD. Di nuovo c'era invece il tentativo di manipolare le idee politiche con un indottrinamento di massa. La NKVD assunse infatti il ruolo di insegnante o, più propriamente, di propagandista. Nessuno sarebbe stato in grado di prevedere che dopo essersi fatte le ossa con i polacchi, i comunisti avrebbero ulteriormente sviluppato queste loro tecniche sui prigionieri tedeschi e 11 anni più tardi, durante la guerra di Corea, sui prigionieri americani caduti nelle mani dei cinesi. Gli interrogatori cominciarono subito dopo l'arrivo dei prigionieri nei 3 campi. Gli interrogatori avvenivano quasi ogni notte. Un prigioniero non sapeva mai quando lo avrebbero potuto chiamare per interrogarlo, né sapeva per quanto tempo lo avrebbero sottoposto al fuoco di fila delle domande. Una cosa sola era chiara, che gli inquisitori non erano mai soddisfatti e che si doveva dire sempre di più. La NKVD sperava che i prigionieri, una volta spersonalizzati, avrebbero risposto automaticamente a determinati stimoli inviati dall'apparato di propaganda, orientandosi così verso nuove ideologie politiche e facendo propri i valori culturali loro proposti. Il risultato degli interrogatori notturni e delle tecniche di condizionamento fu di rendere i prigionieri sempre più stanchi, tesi, insicuri e ansiosi. Le privazioni di carattere fisico, come l'insufficienza di cibo, il freddo intenso e l'affollamento nelle baracche aumentarono i timori e l'ansia. Di tutti i prigionieri se ne salvarono solo 448. La NKVD pensava di manipolarli ulteriormente fino a raggiungere un indottrinamento completo. Gli altri furono invece massacrati perché erano incorreggibili. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Janusz Kazimierz Zawodny, La vera storia del massacro di Katyn, Mursia Editore, 192 pagine, 14 euro. L'81% degli italiani non risponde al cellulare se il numero chiamante risulta sconosciuto. E questo, secondo uno studio dell'Ufficio Sviluppo Economico del Ministero delle Comunicazioni, provoca perdite economiche stimabili in diversi milioni di euro l'anno. Lo psichiatra Silvio Berdini, professore ordinario di psicoreazione verbale presso l'Università di Padova, sostiene che il termine sconosciuto, che compare sul telefonino, evoca l'ignoto, l'occulto, e questo è, a livello inconscio, causa di stati ansiosi e di paura. Meglio sarebbe, secondo il professor Berdini, che le compagnie telefoniche sostituissero sconosciuto con la parola misterioso, che invece fa pensare all'avventura, alla sorpresa, alla possibilità di una piacevole scoperta. Avete ascoltato la lettura di un estratto dalla rubrica L'Unpen di Andrea Benedetti, dal Foglio del 21 settembre.